parto. Adesso vado. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Aspetta, dunque questo, aspetta, questo lo butto beh, qui, qui. Così la metto qui. Na na na na na na na na na. Questo dove lo metto? Vabbè, ma perché ci penso? Ma dai, ma è tutta roba da mettere nell'umido questa, dai. Vabbè, ecco, qui, qui, serve. Ecco, ecco, via, ecco. No, no, no. Ah, salve. Ah, ma siete già qui? No, no, prego, prego. No, entrate, entrate, entrate pure. Fate finta di niente. Scusate, sono in ritardo. Volevo farvi trovare tutto pulito. Sedetevi, no. No, no, signora, si sieda pure. Ho quasi fatto, no? No, immagino che voi abbiate già tolto gli addobbi di Natale, vero? Beh, certo, io no. Vi piacciono? Le mie decorazioni? Le ho fatte io. Sono le mie decomposizioni natalizie del Natale morto. Cioè, mi pare una simbologia perfetta per questo Natale finito. No, signora, finito nel senso... cioè... finito nel senso non di passato, no, no, proprio finito, morto. Ma dai, ma lo sappiamo tutti che quest'ultimo Natale, oh, ma era già mortissimo ancora prima di arrivare, dai. No, no, no. Allora questo, dai, butto questo e poi quasi fatto, Ma scusate, ma non l'ho sentito uno spiffero anche voi? Arriva da là, là in fondo, là, ecco, Qualcuno può chiudere il buco dell'ozono, per favore? Madonna, non se ne può più, Cioè, anche la conferenza mondiale, quella sul clima, l'hanno detto, Pare che noi ci stiamo facendo, cioè noi, proprio noi da soli, a noi stessi, proprio noi medesimi, ma proprio veramente con le nostre mani, ci stiamo facendo un buco dell'ozono così. Vabbè, ma siamo scemi, No, no, no, allora... Io non lo so se voi vi siete accorti, ma spirano dei venti strani da quel buco. E non mi sto riferendo alle banali puzzette, quelle che avete lasciato nel letto stamattina. No, no, no, no, no, no, no, no, sono venti di guerra quelli, Ah, tristezza, tristezza, aspetta. Oh, questo è l'ultimo, Lo butto e sono pronta. Fatto. Diamo inizio a questa nuova serata di biocomicità e direi attenzione, attenzione perché la biocomicità è una comicità autentica, genuina, che guarda al futuro e siccome il nostro futuro non è comico, la biocomicità non fa ridere! Vai con la sigla! All the world is waiting for you, and the power you possess. In your satin tights, fighting for your right, and your red, white, and blue. Sera, bio sera a tutti! No, anzi no, scusate, madonna, sbaglio sempre. Allora no, riprendo, bio sera a tutti e tutte. Sì, ma anche a tutti e tutti che si sentono tutte, e tutte quelle tutte che sono tutti, vabbè, insomma dai, biosera nel rispetto di tutte quante le biodiversità. Ce l'ho fatta. Allora, vi sto augurando praticamente, ma in realtà lo auguro un po' a tutti noi, una serata veramente biologica. Biologica, quindi buona, quindi sana, quindi felice, quindi impossibile. O quasi. E non perché di sti tempi la felicità, è rarissima, Io lo so che da sempre si dice la felicità dura un attimo. Ma oggi, ma dai, ma altro che attimo, ma manco il tempo di gioire abbiamo più, Tipo io stamattina mi sono svegliata, ho fatto, nel pomeriggio, poi appena sono andata a fare la spesa, ho detto ma che beh, sono proprio che poi io ho scoperto che c'è un articolo della Costituzione americana che dice proprio così: La ricerca della felicità è diritto di tutti. E certo, certo, cercarla è diritto di tutti, trovarla è culo di pochi. E beh, lo sappiamo. E di sti pochi io in giro ne vedo proprio pochi, pochi, pochi. Non è che mi è calata la vista, no, perché io, per esempio, ho tantissimi tristi, ma io li vedo benissimo. Ci vorrebbe una felicità nuova, dai, più autentica, più genuina, più ecosostenibile. Invece io per ora l'unica felicità ecosostenibile che ho visto è solamente quella che per sostenerla devi come minimo, che ne so, scoprire che la cartella dell'Equitalia che sta nella tua cassetta della posta non è la tua, ma di quello del piano di sotto. Eh sì, tu te la ridi, ma pure quello del piano di sotto se la ride e si è trasferito a vivere in Brasile. Mi sa che ora è più felice lui, eh? E poi lo so che si dice che la felicità non è avere ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha. Vabbè, so anche che si dicono un sacco di cazzate sulla felicità, Però la felicità, desiderare ciò che si ha, e che ciò... E io c'ho debiti. Li posso desiderare? Vabbè, dai, infelice sì, ma scema no. Aveva ragione mio padre. Sì, aveva ragione lui. Quando io magari piangevo, no? Mi lamentavo per qualcosa, facevo qualche capriccio, mi diceva: Giuditta, ricordati, la felicità non esiste. Ti conviene imparare ad essere felice senza. Vabbè, c'aveva ragione. Un insegnamento buono questo, Buono, buono come un frutto biologico che pare brutto, ma fa bene. Io lo dico sempre, meglio scegliere bio. Per esempio, io ogni capodanno faccio una scelta veramente biologica. Sì, rinuncio al suicidio. Anche quest'anno, eh? Infatti, dai, eccoci qui, io qui, voi lì, appassionatamente insieme a chilometri zero, nel nuovo anno. Che culo. Che poi... Vabbè, ma che poi io mi domando, ma come ha fatto anche quest'anno a nascere un nuovo anno? Non c'è futuro, è tutto finito. Alberi finiti, acqua finita, bestiame sfinito, bestemmie esaurite. Ma mi sa ci resta solo un posto al sole, perché anche i posti al Camposanto sono esauriti, eh? Finito! Per fortuna che... Per fortuna che di aria ce n'è ancora, però. Guardate, eh? Sì. Gli scienziati ne hanno trovato ancora alcune tracce tra i fiumi. No, ma che fiumi, ma che dico? Tra i fumi inquinanti e le polveri sottili. Qualche traccia, qualche, che basta, Insomma, direi che senza farla troppo drammatica, possiamo dire che oggi siamo davanti alla fine del mondo, ecco, che è un evento imperdibile, mica lo manderanno in replica su Canale 5, no? Non dobbiamo perdercelo, che poi, allora, non c'è da stupirsi se io mi domando da dove è cicciato fuori questo 2016. Evidentemente siamo talmente nella merda che fa con cima. Solo un mese fa eravamo nel vecchio, niente di buono che germogliava. Le leggi di natura sono cadute in prescrizione. Che ci resta? Le leggi fatte da noi. Allora, abbiamo mai fatto una cosa decente senza l'aiuto di mamma natura? Noi? Mai. E infatti il risultato è quello lì che si vede. Siccità economica, deforestazione di idee, estinzione delle speranze, scioglimento dei cervelli, scomparsa totale di etica, morale, professionale, sociale. A me dall'anno scorso restano solo svariate gatte da pelare, un sacco di patate bollenti, invasioni di sorci verdi, matasse di filo da torcere, balle e scatole tutte già rotte, niente più lacrime da versare, niente latte, il frigo è vuoto, sì, il latte mi è sceso già tutto alle ginocchia, tutto. E però che succede? Che ci dicono che qui in Italia si sta facendo la ripresa, sì, la ripresa, sorridete le telecamere, ecco, mi date la numero 2, vai, zoom, ecco, fammi un bel piano sequenza, dai, riprendimi mentre esco dal supermercato con la busta piena di niente. eh? Un niente pieno di vuoto. E con la busta vuota, ma che ci faccio? La uso per i rifiuti organici, dici? E certo, le buste del supermercato sono tutte riciclabili. E nelle buste riciclabili che ci metto? L'avanzo del pranzo di ieri. Dov'è? Non c'è. Dell'altro ieri? Non c'è. Dell'ultimo Natale? Non c'è manco quello, ma certo, non ho più rifiuti organici perché non ho più niente di organico che mi avanza. Pure la buccia del formaggio mi mangio ormai. Quasi quasi mi mangio la busta. Vabbè, è di quelle ecologiche, fatta col mais. Il movimento ecologista sarebbe fiero di me. E poi ste buste le hanno fatte apposta per non contenere niente. Sono fatte di mais, ma quando mais restano intere? Scusate, ho fatto una battutina sciocca, lo so, un po' cretina. Vabbè, sciocca ma vera. Perché, allora, c'è una signora anziana, una signora che abita nel mio palazzo, Luisa si chiama. Allora, lei tutti i giorni va al supermercato, riempie la busta, quando arriva a casa c'è una mezza vuota. E lo so bene, perché la seguo e raccolgo tutto quello che semina per strada. Come Pollicino. Ma porca miseria! Ma guarda che disastro, mi è caduto tutto quanto! Lo dico io, ste buste qui, quelle ecologiche, sono fatte male, si rompono. Ma adesso te la faccio vedere io. Te l'ho qui il bustone di plastica, te l'ho qui. Ecco, adesso ci butto tutto dentro, e via, che me ne vado come un fringuellino. Cosa ha detto? Cosa lei che hai detto? Che non ho sono sorda, dai, non hai detto niente? Guarda che mi sa che tu hai pensato forte forte, perché ho capito molto bene. Guarda che lo so che inquina questa, ma mica tanto quanto quel gas di putrido che hai appena mollato te, eh? Però io non ti ho detto niente, eh? E lo sai perché? Perché ero contenta per te. Vabbè, finalmente hai digerito quel vustelone che ti sei mangiato a pranzo. Sì, pranzo dell'altro ieri. Pensa un po' te quanto tempo ci hai messo. Vabbè, ma io l'ho riconosciuto subito. E lei quel vustelone che somiglia tanto a quello lì. Ma dai, com'è lei che si chiama quello lì? Il Renzi. Renzi. E beh, come un vustelone, è tirato a lucido fuori. Dentro non sai mai che cosa c'ha. Vabbè, roba brutta che fa male. Ma pensa che, ma io all'ora di pranzo e poi anche all'ora di cena mi metto a tavola davanti alla televisione. C'è sempre lui. Ma io di quei discorsi lì, ma io non digerisco niente, non mi vanno nessuno giù. Mi sa che sarà per questo che ultimamente ci sono tante pubblicità per i problemi intestinali, eh? Beh, si fanno un bel servizio alla RAI. La televisione. Io la televisione l'accendo, la guardo, ma non capisco. E non capisco perché non la spengo. Sarà la solitudine. Eh sì, perché mio nipote viene lì nel mio quartiere, viene nel quartiere tutti i giorni, ma mica lo vedo io, no? Per forza non gli apro la porta. Ma non è colpa sua, no. Sbaglia il campanello, va dalla vicina. Ma mica se ne è mai accorto, no? Non l'ha mai guardata in faccia. E ben c'ho sempre gli occhi solamente sul cellulare. La Mariuccia, no? La Mariuccia, la mia vicina. Però lei è contenta perché le tiene compagnia. Lui che parla. Lei nemmeno deve rispondere perché fa tutto lui, eh? Tocca il cellulare, parla, lo ritocca il cellulare e gli risponde. Ma che roba! La Mariuccia di tutti quei discorsi non ci capisce niente. No, ormai è convinta che c'ha l'Alzheimer e che c'ha pure un nipote che lei manco ce l'ha mai avuto. Lui invece è contento di farla felice lei, ma va là, fai più felice me a non venire, mi fa impressione solo a guardarlo, sembra un zombie. A Natale Natale siamo stati insieme, sono andata io a casa di mio figlio, ero lì, sono andata su alle scale, sono andata fuori dalla porta, ci ho pensato che volevo sbagliare anch'io il campanello, ma mi è mancato il coraggio, è l'educazione che mi frega a me. Allora poi mi sono fatta coraggio e sono entrata. Per tutto il pranzo era incredibile. Mio nipote al computer, mia nuora al cellulare, mio figlio che parlava un rompiballe, parla. Gli altri invitati sembravano che ci avessero il Parkinson, c'erano tutti zitti, facevano solo la testa così come per dire sì c'ha ragione, sì è vero. Mio figlio è talmente fissato col movimento dell'ecologista che come se nemmeno ci fossi, ha fatto un comizio ecologista contro la mia generazione e diceva noi stiamo pagando per le vecchie generazioni che hanno sprecato tutte le risorse del pianeta. Ma io stavo zitta, pensavo io pago con la mia pensione le ultime rate del mutuo della casa che erediterai te, perché a te, ma chi te lo dà il mutuo a te? Ma chi ti dà la pensione domani? Ma chi ti dà il lavoro oggi? Ma è proprio lì che mi è venuto in mente Renzi ancora, Ma allora mi è venuto in mente, ma questi qui hanno messo il futuro nelle mani di un Wüstel, per non parlare degli altri che gradinate del Parlamento sembrano gli scaffali del discount, e trovi roba solamente scadente e nociva. Ma lui ha continuato, diceva, sono le vecchie generazioni che hanno rovinato le risorse ecologiche a nostre spese. Io zitta, ai tempi di mia madre non si preoccupavano della difesa dell'ambiente, non c'era un movimento ecologista. E io a sto punto mi sono messa a parlare, ho detto e te, movimento ecologista, aspetta un attimo, lo so, movimento ai miei tempi era salire le scale a piedi. Non c'erano le scale mobili, gli ascensori andavano con la monetina che io non ce l'avevo. E poi il movimento era camminare, i negozi erano dietro l'angolo, io giravo l'angolo, fumavo di nascosto la sigarettina, andavo sempre io a fare la spesa, sempre io, chi va a fare la spesa? Io! Movimento anche era, pedalare, a scuola andavamo in bicicletta, nostra madre la mattina ci svegliava e diceva, le tardi, forza, muovere il culo, muovere le chiappette. Questo non era mica un movimento ecologico per noi, no, era più un movimento femminista, sì, femminista per nostra madre, che non era costretta come oggi a fare il servizio del taxi 24 ore su 24, ma dai, se... O anche movimento era portare le bottiglie al negozio, che il negozio le ridava alla fabbrica, che le lavava, le sterilizzava, che le riempiva e che poi per due soldi un litro di latte mio padre comprò. lo so, movimento era andare dal fruttivendolo portando i sacchetti di carta, perché si usavano più volte, se lo rompevi e facevi cadere le mele, prima che ti si accendeva la faccia dalla sberlona che ti aveva dato la tua mamma, col sacchetto rotto ci accendevi il fuoco, lei ti diceva anche grazie, E poi anche movimento l'era prendere il secchio dell'umido, portarlo in giardino e darlo da mangiare agli animali, che poi sti animali li davamo da mangiare al portiere, che poi lo pagavamo coi polli. E movimento l'era anche arrivare fino alla fontanella a bere, non ci avevamo mica le bottiglie, i bicchieri di plastica. Il movimento ecologista mica ce l'avevamo noi. Le penne le riempivamo di inchiostro, non ne compravamo una ogni volta, perché il movimento ecologista noi mica ce l'avevamo. Ma pure i pannolini li lavavamo. E facevamo asciugare fuori dalla finestra, niente lavatrice, niente asciugatrice. L'ammorbidente era il nostro olio di gomma. Il movimento ecologista non ce l'avevamo, cambiavamo solo la lama, non tutto il rasoio. Mio nonno invece cambiava tutto il barbiere, lo faceva per tenersi informato, sapeva tutti i pettegolezzi, tutti i quartieri. Però il movimento ecologista noi mica ce l'avevamo, ma c'avevamo tutto un movimento di fatti fatterelli che animavano il quartiere, sapevamo tutti, e poi cucinavamo ogni 5 minuti 4 salti padella, no, noi con un salto fuori dal letto la mattina una mattina via, cucinavamo da mattina presto per ore, niente microonde, niente freezer, niente colesterolo alto, niente, niente. Facevamo lavorare il corpo dappertutto, soprattutto in casa, mica in palestra, sui tapirulo anche vanno a corrente loro a pagamento, tu no. Beh, il movimento ecologista mica ci avevamo noi. Ma peggio è che purtroppo non ci avevamo nemmeno la pillola. Avremmo evitato una generazione come mio figlio, che mette al mondo uno come mio nipote e che poi mette un Wüstel a decidere del proprio futuro e che prima crea un movimento ecologista e poi resta fermo lì a guardare il figlio al cellulare, il computer, la moglie dentro il mamma mia, giudicare, lamentarsi tutti, mamma mia. Ah, dimenticavo, prima di andarmene via volevo dirvi una cosa. Per me movimento era anche rivoluzione, libertà e vita.